Sandro Veronesi, Caos, Calmo. Allora, come detto, la questione della manovra, sì, del Senato, correzione a 48 miliardi, così titola Il Sole a pagina 3. C'è stato il varo ieri al Senato, oggi il varo in tempi record, davvero alla Camera non ci saranno, è la prima volta storica, emendamenti posti dall'opposizione, neanche alcun tipo di modifica per quel che riguarda sugli ordini del giorno, cioè davvero un clima di coesione nazionale, il tema del nostro sondaggio. Noi vi chiediamo se vi piace questo clima di coesione nazionale responsabile. Intanto gli effetti del decreto legge produrranno un miglioramento dell'indebitamento netto del 2014 di ulteriori 22,6 miliardi di euro, scrive Marco Mobili a pagina 3 del Sole. Questi 22,6 miliardi, se sommati ai 25,3 previsti dal decreto legge licenziato da Palazzo Chigi, portano il saldo complessivo della manovra a sfiorare i 48 miliardi di euro. Per esattezza sono 47 miliardi e 973 milioni. Le ultime modifiche, l'arrivo immediato del ticket sulle visite specialistiche. Poi, in termini di contenuti, le principali novità degli ultimi giorni riguardano le pensioni, i ticket sanitari per l'appunto, il patto di stabilità dei comuni, il bollo sui depositi titoli, gli ammortamenti dei concessionari. Queste alcune novità. Beh, certo, quella del colpire le famiglie, come l'hanno tradotta alcuni quotidiani, sono le riduzioni delle agevolazioni fiscali su cui Marco Mobili e Dino Pesole si concentrano a pagina 7. Il tema è questo, la domanda d'obbligo che si pongono sul Sole è questo: la scure si abbatterà in modo uniforme sull'intero spettro di agevolazioni, bonus e sconti oggi esistenti, che stando all'ultima tabella sono salite a quota 483 per un valore di 161,2 miliardi? Se così fosse, il taglio spazierebbe dalle detrazioni per i figli a carico al bonus per la ristrutturazione della casa, fino a colpire deduzioni di spese per asili nido, palestre. In realtà si tratterà di un taglio tendenzialmente orizzontale, ma nei fatti selettivo. E qui le spiegazioni. Ci sono anche le prime analisi, secondo il Corriere della Sera, pagina 8. I tagli alle detrazioni costeranno 1.000 euro a famiglia, rischiano di arrivare fino a un costo di 1.000 euro a famiglia. E ci sono tutto il dettaglio delle agevolazioni fiscali sulla casa, sulla famiglia, sul lavoro e pensioni, su, che ne so, le spese funebri, le spese veterinarie. Ecco, se ci fosse un taglio totale, si rischierebbe di arrivare, secondo il Corriere della Sera, 1.000 euro di tasse in più in 2 anni. Tanto potrebbe costare a una famiglia al media il taglio di deduzioni, detrazioni e sconti fiscali previsto nel 2013 e nel 2014 nella manovra. Sono appunto 483 le deduzioni, valgono nel complesso 161,2 miliardi di euro, come scrive anche sul Sole. Il taglio lineare del 5% farebbe risparmiare 8 miliardi, che l'anno successivo, quando è prevista un'altra sforbiciata del 15%, salirebbero a 32. Ovviamente bisognerà capire come questi tagli saranno selettivi, saranno lineari, se saranno tagli di tutti queste agevolazioni, quanto andranno a colpire. Certo, si riverseranno sulle famiglie, così come la questione delle pensioni analizzata dal Sole a pagina 5. C'è una novità invece per quel che riguarda il deposito, la tassa sul deposito titoli. Il piccolo risparmiatore, una novità importante, il piccolo risparmiatore evita il super bollo, così titola pagina 6 il Sole 24 Ore. Perché i piccoli risparmiatori possono tirare un sospiro di sollievo, forse rallegrarsi per lo scampato pericolo, la stangata non ci sarà. Eccolo qui, il tassa, l'aumento della tassa e quindi il super bollo sul deposito titoli scattirà a partire dalla soglia di 50.000 euro e aumenterà progressivamente fino a raggiungere dal 2013 1.100 euro annui per chi ha più di 500.000 euro di giacenza sul dossier titoli. Quindi dal 2013 chi ha oltre 500.000 euro pagherà 1.100 euro all'anno di tassa deposito titoli, ma la grande novità è questa, che si pagherà solo per chi ha dai 50.000 euro in su in titoli, non invece tutti quelli che fino si prospettava nella prima idea della manovra, quelli che avevano anche 1.000 euro in botte. Insomma, comunque tutti i dettagli li trovate in questo caso a pagina 6 del Sole 24 Ore. E vabbè, insomma, ci sono tante novità, ci sono anche le reazioni politiche. La prima, per esempio, è molto dura, Il Corriere della Sera la mette a pagina 2, un'intervista ad Antonio Martino. Non è casuale, perché Antonio Martino, liberale, ex ministro, considerato uno dei consiglieri economici più influenti per Silvio Berlusconi, boccia in maniera clamorosa questa manovra. Italia le tasse dimenticati, è da socialisti, che per un liberale come Martino deve essere un'accusa molto molto grave. Questo l'intervista di Monica Guerzoni. Beh, dice Martino, questa storia che io farei parte dei ricchi, l'1% della popolazione, non mi convince. Ho la stessa automobile, la stessa casa, la stessa moglie da moltissimi anni, ma mi chiedo che senso abbia tassare l'altro 99% perché io possa avere gratis le medicine dal Servizio Sanitario Nazionale. È una cosa tristissima. I gruppi organizzati hanno sempre la meglio sull'interesse generale. Il governo ha fatto marcia indietro perché vive di consenso. Ma le sembra giusto che chi ha lo yacht, la villa al mare e l'amante risulta più povero di me? Così chiede Antonio Martino. E tutti mi chiedono, lei chi ci sta a fare con un governo di pazzi socialisti? I nostri elettori sono furibondi, gli unici liberali rimasti sono Galan e Crosetto. Non sarà un caso se in questo governo i socialisti sono la maggioranza, Sacconi, Brunetta... E Tremonti, chiede Monica Guerzoni, nega, ma è socialista pure lui. E poi sentite Martino, c'è un crescendo. Questa manovra è l'ennesima porcheria, colpisce la povera gente e il popolo delle partite IVA. Avevano promesso che gli avremmo abbassato le tasse, invece muoiono come le mosche. Tremonti crede che le spese discrezionali sono inutili, ma non è così. Se non si fa manutenzione agli elicotteri dell'esercito, si rischia di uccidere qualche militare, come è successo in Francia. E infine posso dire una cosa che mi provocherà molti nemici? La dica, ormai è uno sfogo inarrestabile. Quando il genio di Sondrio, cioè Tremonti, aprì il suo studio di tributarista, solo nel primo anno fece erodere ai suoi clienti, in modo legale, base imponibile per 600 miliardi di lire, il che tradotto in parcelle vuol dire qualcosa come 3 miliardi. Un'accusa molto forte da parte di Antonio Martino. Questo è il clima, d'altronde Napolitano dice un miracolo i tempi di questa manovra, ma... Siccome siamo al terzo giorno del gran silenzio di Silvio Berlusconi, ancora abbondano in retroscena. Oh, intanto La Stampa dice che Tremonti ha fatto una litigata il giorno in cui si è presentato al Senato, ieri, parlando di Titanic. Siamo come sul Titanic, cioè come dire, se si affonda tutti. La Stampa dice che è stata una litigata al telefono con Berlusconi, però vai a vedere e vai a scoprire se è vero oppure no. Certo è che tutti in retroscena parlano di questo silenzio di Berlusconi. Viene presentato in foto ieri mentre entra da Palazzo Grazioli, a pagina 5 del Corriere della Sera, anche degli strani occhiali da sole alla moda che calza sugli occhi, ovviamente. Viaggi e impegni annullati, la nuova linea di Berlusconi. Insomma, c'è un silenzio, ha annullato i viaggi, la visita alla presentazione del Milan, al funerale ieri dell'Alpino, ieri una conferenza stampa, quasi non parla, rifiuta le chiamate al telefono. L'unica frase che Marco Galluzzo gli attribuisce è questo: io non mi dimetto, mi sfiducino se ci riescono. Così come Repubblica invece la mette come titolo: non lascio, provino a sfiduciarmi. Questo è il titolo. Mentre l'Unità va a cogliere una frase di Berlusconi, che per la verità non è una frase detta a voce, ma ieri sono state diffuse delle anticipazioni di dichiarazioni di Berlusconi rese alla onorevole del PDL Maria Rosa Rossi per il primo numero di OIPA Magazine Dossier, una versione cartacea di un quotidiano online su imprese e pubblica amministrazione. Questa è la frase di Berlusconi: agli italiani con il nostro governo è andata molto bene, da farsi il segno della croce con il gomito, come dicono a Milano. E l'Unità titola: Berlusconi senza pudore, agli italiani è andata di lusso, così a pagina 6. Per il Libero invece Berlusconi è depresso, la manovra e il colle deprimono il cavaliere. L'esordio di Salvatore Dama, uno che spesso ci azzecca quando parla di Berlusconi, è attribuirgli a lui questa frase: che poi non è detto che nel 2013 lasci, forse mi ricandido. Questo avrebbe detto ieri Berlusconi. Agli italiani, con il nostro governo è andata molto bene, tanto da farsi il segno della croce con il gomito. Eccola qui, anche qua, l'anticipazione sul libro di quello che ha detto Berlusconi per questa rivista. E poi la critica alla manovra: dovevamo tagliare le tasse, ci troviamo i tagli alle famiglie, avrebbe detto Berlusconi ai suoi stretti collaboratori. E insomma il clima è questo, il clima anche politico, lic manebimus optime di Tremonti, cioè per, come dire, le dimissioni sono assolutamente scongiurate, anche se Bersani, da un'intervista a Repubblica intervistata da Alessandra Longo a pagina 4, rilancia: ora la svolta, si deve andare a elezioni, ma il giorno dopo la manovra Berlusconi deve andare a casa. Si deve andare a elezioni, ma non mi sottraggo anche all'ipotesi subordinata di un passaggio di transizione che renda possibile allestire una nuova legge elettorale e imbastire le riforme. E se Berlusconi non lascia, è il peggio del peggio, risponde Bersani. Andare avanti così per 2 anni, con un ministro accusato di mafia, un consiglio dei ministri che non riesce a riunirsi, ci espone a tutte le intemperie. E il silenzio di Berlusconi per Bersani è impressionante, il punto più basso di questa legislatura già bassa. Invece, ieri Libero era molto efficace nel titolo: pagano vecchi e malati pagano la casta. È perché, insomma, sulla casta, la casta dei politici, oggi, dal Giornale a Libero e al Fatto Quotidiano, sono tutti titoli di prima pagina. Il Giornale, rivediamo i titoli di prima pagina: la casta si aumenta la paga. Mario Giordano si concentra sulla decisione del consigliere di Pugliesi, della Puglia, di richiedere indietro il taglio del 10% delle loro indennità regionali di qualche anno fa. Era un taglio non dovuto. E dunque i consiglieri di Puglia vogliono più soldi. Libero: nella notte la casta salva i suoi privilegi. E Libero che cosa fa? Pubblica la seduta notturna, telecamere spente, con tanto di dichiarazioni di senatori. Il lamento dei senatori: non toccateci lo stipendio. C'è chi si lamenta della pubblicistica antiparlamentarista che produce la disaffezione dei cittadini, l'onorevole senatore Raffaele Lauro del PDL. C'è chi, come Andrea Pastore del PDL, dice: si levino voci in difesa del prestigio del Parlamento e della dignità della funzione parlamentare. C'è chi, come Giuseppe Saro, tuona: l'indennità parlamentare serve al deputato e al senatore per svolgere con la massima efficacia la propria attività politica, e così via. Insomma, la casta si salva nella notte. Così titola Libero, mentre La Stampa, con Francesca Schianchi, fa i calcoli: solo tagli da manicure ai costi della politica. Su 47 miliardi di manovra, la casta quanto ha risparmiato? 8 milioni. 47 miliardi della manovra, la casta 8 milioni. Sullo sfondo, secondo molti retroscena, ciò che teme Berlusconi molto sono anche le inchieste, no? E beh, ce n'è una che sicuramente oggi ancora sui giornali viene rilanciata, è quella che coinvolge il ministro all'agricoltura Romano. Il Corriere ricorda, per esempio, quando già il giorno del giuramento, il 23 marzo 2011, il Quirinale fece, diciamo, mostrò delle perplessità, perché Romano a quel punto era indagato. Ora, nonostante la procura, il PM, abbia chiesto l'archiviazione per lui, c'è stata invece una, è stata respinta questa idea di richiesta, e c'è stata la richiesta di imputazione coatta. Insomma, le opposizioni si scatenano, PD, IDV e Future Libertà attaccano Romano, lui chiede di parlare all'antimafia. Tra l'altro il Corriere oggi dà un'altra notizia, con Giovanni Biancone, l'unico giornale che la dà, a pagina 13, c'è un nuovo pentito, si chiama Stefano Loverso, uomo d'onore che ha retto le sorti del clan di Ficarazzi, piccolo centro alle porte di Palermo, che avrebbe deciso di collaborare, ha parlato tra gli altri dell'ex democristiano Romano, passato poi all'UDC. Loverso ha riferito del sostegno che avrebbe fornito Romano alla famiglia Mandalà, quella che governava, in maniera mafiosa ovviamente, Villabate, altro centro vicino a Palermo. Le sue dichiarazioni, il suo contenuto è ancora segreto, ma certo un'altra tegola su Saverio Romano, ministro che fa 2 interviste al Corriere e a Repubblica: dimissioni ora no, deciderò in futuro, così dice al Corriere. mi lascia ascoltare il PM, immagini che io mi dimetta stasera che all'udienza preliminare il PM reiteri la richiesta di proscioglimento. Vorrebbe dire che un ministro della Repubblica, capo di un partito con una maggioranza risicata che tiene in piedi il governo, è entrato a gamba tesa su una vicenda politica. E poi Romano dice: non commento le riserve e preoccupazioni che a suo tempo espresse il capo dello Stato. Lei ha detto che i magistrati agiscono per motivi politici. Mai detto, risponde il ministro in questa intervista rilasciata ad Alessandro Trocino, anche se alcuni magistrati hanno la tendenza a inquisire politici e poi a prenderne il posto. E anche su Repubblica dice: il processo sarebbe una cosa grave, se mi dimetto il governo non rischia. In ogni caso, intervistato da Emanuele Lauria, dice il ministro Romano: cercherò di evitare a tutti i costi di essere il primo ministro a giudizio per mafia, perché rischia questo, il primo ministro della storia sotto processo per mafia. Sarebbe gravissimo e non scherzo. Dico che questo non accadrà. Ne stia certo, lo eviterò in ogni modo. Per ora di storico c'è solo un'imputazione coatta chiesta dal GIP dopo 8 anni di indagine e dopo una reiterata richiesta di archiviazione da parte del PM. Vabbè, questa è la vicenda politica anche legata alla manovra. C'è una notizia che è un po' passata in sordina, una notizia in realtà importante, anche perché c'è stata una campagna da parte di molti, per esempio l'Unità aveva appoggiato questa campagna per cercare di scongiurare un'approvazione di un decreto che invece è stato approvato. La Padania lo mette in pompa magna, pagina 2 e 3. Clandestini, via libera alle espulsioni. L'approvazione del decreto legge sui rimpatri ieri, vale a dire gli immigrati irregolari potranno restare nei centri di identificazione temporanea da 6 fino a 18 mesi, un anno e mezzo, prima che venga esaminata la loro posizione. E questa del carcere, come viene definito dall'Unità, della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, innalzato questa tempistica fino a 18 mesi, è una campagna che alcuni giornali, alcune associazioni avevano sposato, come dire, diciamo no a questa possibilità. L'Unità ora accusa la sconfitta. Migranti, sì della Camera al decreto della vergogna. C'è anche il commissario il commissario dell'ONU per i rifugiati, che dice va modificato. Per l'opposizione con Livia Turco sono norme disumane, mentre il ministro Maroni dice: sono molto soddisfatto per questa norma che conferma come governo e maggioranza siano uniti e determinati nella rigorosa azione di contrasto all'immigrazione clandestina. Vabbè, non dedicherò molto spazio, anche se sui giornali vi è dedicato, c'è dedicato molto spazio, è dedicato molto spazio a questa vicenda. Insomma, Vendola ha detto che definirsi compagni è un po' âgé, definirsi compagni non va più bene. Forse per adeguarsi ai tempi bisognerebbe definirsi amici. Ovviamente sto parlando dei compagni di partito. E allora, vabbè, l'Unità fa 2 pagine, quando eravamo tutti compagni, il secolo XIX lo mette in prima pagina addirittura, il fondo principale, la biura di Vendola, basta compagni. E giustamente il secolo XIX si chiede, ci sono argomenti che interessano da morire i media, che argomenti che in realtà non sono dei veri argomenti, non hanno una vera e propria dignità di pubblicazione, ma sono dettagli, punti luce nel buio di questo paese. Allora, in assenza di stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, finisce che ti entusiasmi anche per una fiammella lontana. In assenza di passioni vere, di voglia di leggere le cose, la frase di Niki Vendola sul fatto che ormai è inutile chiamarsi compagni e sarebbe meglio chiamarsi amici, sembra un macigno contro la storia del movimento operaio, contro la storia di tutti i marxismi del secolo scorso, contro la memoria della Terza Internazionale. Insomma, sono forse appunto non argomenti, eppure ci sono tantissime pagine sui giornali che poi infatti la gente legge sempre meno. E voglio per concludere citare una bella pagina, un bel racconto. Tante volte invece i giornali raccontano, regalano delle pagine di gran lettura, come quella del Corriere di oggi a firma Goffredo Buccini, a pagina 25, che ha fatto Buccini è andato a Campo di Mele, in provincia di Latina, il paese senza stress, con il segreto dell'eternità. Ma insomma, quanti anni avete, Don Rinaldo? Lui si sistema la coppola, soddisfatto del don di riguardo. Sgrana un sorriso sdentato e con le dita fa il segno di 7. Ah, 70? No, 97, ci traduce una vicina premurosa. Caspita, allora è vero che lei è il più vecchio di Campo di Mele. E inizia così questo racconto in provincia di Latina, in un paese studiato da tutte le università del mondo. Ha incuriosito anche una giornalista, Tracy Lawson, del Telegraph, che si è innamorata di questo posto, dove abbondano i novantenni, i plurinovantenni, gli ultracentenari. Ovviamente tutti a cercare di capire qual è il segreto: l'alimentazione, l'aria buona, la mancanza di stress. Insomma, chi vive qui a Campo di Mele vive fino a 90 anni, 95 anni, 97 anni. C'è gente che è morta a 60 anni e mi hanno detto: vabbè, ma quello era di Campobasso, cioè, come dire, non era di qui, no? E aria ottima, zero stress, cibo gustoso, sanissimo, tanto sport involontario nei campi e negli orti. Ecco il segreto di Campo di Mele. Questa giornalista, tra l'altro inglese, Tracy Lawson, si è talmente innamorata che è arrivata lì per studiare questo luogo, studiato da tutte le università del mondo, e ha detto: sapete che c'è? Io mi trasferisco qui. Magari campassi 90 anni. Il paese senza stress, con il segreto dell'eternità, sul Corriere, a pagina 25, ora il giornale radio.